sembrano mani, i rami del mero sembrano dita che graffiano il cielo, un conto veloce di quanto possiedo, i soldi di carta e tanta rabbia per questa vita che si spegne di corsa come un fuoco di foglie, come un lampo nel cielo. Adesso, adesso, adesso si va. See you.